l'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento del sabato alla ricerca dell'Altra Europa, di altri punti di vista, di altre sfaccettature. Cerchiamo approfondimenti legati all'attualità europea. Lo facciamo anche grazie alle vostre sollecitazioni, ai vostri stimoli. Potete interagire con noi via SMS al 349-238-6666 oppure sulle nostre piattaforme virtuali facebook.com/l'altraeuropa oppure Twitter, l'account, il mio personale, Federico Taddia. L'hashtag è ovviamente l'Altra Europa, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a trattare. Oggi viaggeremo molto, usciremo ed entreremo dal Parlamento europeo per capire quello che è successo in questi giorni e anche lì per andare a così toccare, sfiorare alcune importanti sfumature. E partiamo proprio parlando di Asensio. Asensio, bevanda permessa nell'Unione Europea dal 1991, ma non ancora disponibile in tutti gli stati membri. E l'Asensio è stata protagonista in questi giorni a Strasburgo, perché con 409 voti a favore, 247 contro e 19 astensioni, il Parlamento Europeo ha bocciato una proposta della Commissione Europea. La proposta della Commissione era quella finalizzata a standardizzare l'Asensio, a renderlo simile alle altre bevande alcoliche, mettendo un paio di parametri. Per esempio, l'Asensio avrebbe dovuto contenere dei livelli minimi di anetolo, che è un olio essenziale dal gusto di anice, che è uno dei componenti dell'Asensio, e anche dei valori minimi di tuione, che è uno stimolante prodotto dall'artemisia o Asensio maggiore. Insomma, concetti, misure, cifre, nomi da addetti ai lavori. Però mi piaceva questa cosa, che comunque ci fosse tutto il Parlamento Europeo così pronto a disquisire su questo liquore che tanto ha fatto parlare nel secolo scorso. E con noi c'è un esperto del settore, perché volevamo anche la voce dei protagonisti, di chi comunque con l'Asensio ci campa. E con noi c'è infatti Stefano Rossoni, che è un distillatore professionista di Asensio ed è uno dei membri dell'Associazione Italiana per la Tutela dell'Asensio. Buongiorno Rossoni, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico. Lo diciamo che in questo momento lei si trova negli Stati Uniti e sono più o meno le 4 di notte, giusto? Sono di fatto le 5, perché non tenevo conto dell'ora legale in Italia. Ha bevuto Asensio per stare sveglio? No, ho bevuto un po' di caffè. Allora, Rossoni, ci racconti, vi aspettavate qualcosa da questa direttiva proposta dalla Commissione, però bocciata dal Parlamento? È un qualcosa che avrebbe cambiato le carte in tavola in modo decisivo per chi produce, per chi commercia l'Asensio? Beh, allora, questa normativa per definire l'Asensio, diciamo che nell'ambiente era un po' controversa, perché sembra abbastanza palese che fosse stata scritta quasi più per conciliare, diciamo, le volontà dei vari produttori di Asensio o pseudo Asensio che tendono un po' a bisticciare tra loro. Questa cosa, per esempio, dei limiti minimi, all'inizio si era parlato anche del permettere l'utilizzo di coloranti artificiali e zucchero che non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di Asensio autentico, ma vengono utilizzati nella produzione di quelli che noi chiamiamo pseudo Asensi, che provengono prevalentemente dall'est. Certo. D'altro D'altro canto abbiamo per esempio alcuni, un distillatore francese che ha insistito per mettere questo limite minimo dell'anetolo e del tuione proprio per di fatto eliminare questi altri produttori dal gioco, perché molto spesso non utilizzano anice nel loro assento, il che non ha molto senso. Ma infatti leggevo varie dichiarazioni degli eurodeputati, per esempio il francese Grossetet diceva è un male perché senza standard in effetti si può vendere qualsiasi cosa con l'etichetta di Asensio, mentre il tedesco Schnellard dice è un bene perché è preoccupato per il tuione, che questa sostanza stupefacente, possiamo definirla così, fa veramente male. È una parola grossa, stupefacente? Direi che sì. Il tuione è una sostanza che ha una cattiva fama e sì, questa viene dalla storia, dal bando e da questi studi faziosi che sono stati effettuati verso i primi del Novecento per screditare l'assenzio, che purtroppo sono finiti nei libri di chimica e medicina e non sono stati aggiornati con gli studi più recenti che dimostrano che il tuione di fatto ha una tossicità molto molto molto bassa. Quindi il tuione di per sé è niente più che un blandissimo stimolante. Stiamo parlando di una cosa più debole della caffeina, per dire. Ma Rossoni, in Italia, ma anzi in Europa, siete molti a produrre Asensio? Diciamo che c'è un discreto numero. C'è stata una forte crescita di produttori di Asensio negli ultimi anni. Quindi sì, ci sono vari produttori per ogni paese, o quasi ogni paese. Ricordiamo per tutte le informazioni www.asensio.info, in attesa adesso della prossima direttiva, per vedere appunto se la prossima proposta della commissione con tutte le variazioni del caso passerà o meno l'approvazione del Parlamento europeo. Grazie davvero Rossoni, buon lavoro e grazie per aver fatto notte con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. Europost-it. 8:30, Festa do Cinema Italiano 2013. Si apre la sesta edizione del più importante evento portoghese dedicato al cinema e alla cultura italiana. Dal 20 marzo fino al 9 aprile, la Festa do Cinema Italiano presenterà al pubblico del Portogallo una selezione della recente produzione cinematografica italiana con un tour di proiezioni che toccherà le principali città del paese. Da Lisbona a Coimbra, da Porto fino a Funchal, sull'isola di Madeira. Oltre alle abituali sessioni panorama, competitiva, corto e altre visioni, la retrospettiva Marcord è dedicata quest'anno al 50° anniversario di 8:30 di Fellini e del Gattopardo di Visconti. Tra gli ospiti, Marco Tullio Giordana e Paolo Genovese. Per tutte le informazioni, collegatevi al sito festadocinemaitaliano.com. Siamo in Tunisia, quella che stiamo ascoltando è la voce di una ragazza che sta cantando una canzone di pace, una canzone di speranza. È quasi un urlo di aiuto, un urlo per dire ci siamo anche noi. E abbiamo scelto questa canzone per introdurre il prossimo argomento, perché a Strasburgo questa settimana non si è parlato solo di Asensio, invece grande soddisfazione perché è stata approvata in plenaria una relazione sulla situazione delle donne in Nord Africa, su quanto le donne possano essere decisive in questi mesi, in questo periodo successivo alla primavera araba. Stiamo parlando di Egitto, di Libia, di Marocco e Tunisia. Un lavoro approfondito, una relazione puntuale. Con noi c'è la relatrice del rapporto. Diamo il benvenuto all'europarlamentare Silvia Costa. Buongiorno Silvia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno e grazie molto di questo invito. Un bellissimo ponte, un bellissimo link, il cuore dell'Europa che chiede che ci sia attenzione, che chiede che ci sia speranza per queste donne che possono essere decisive soprattutto nelle scelte politiche. E, Silvia, tu conosci molto bene anche il Nord Africa, sei stata tante volte. E qual è il cuore di questo rapporto che tanto hai voluto? Intanto sono molto contenta che la sessione di Strasburgo nella settimana successiva all'8 marzo si sia aperta con tre importanti relazioni sulle donne, di cui una era questa e che non guardava solo la condizione delle donne europee, ma delle donne al di là del Mediterraneo. Questo è un segnale finalmente anche di apertura, anche della solidarietà, diciamo, politica oltre che femminile del Parlamento per queste difficili e anche interessanti situazioni che ci sono. Il cuore del rapporto direi che è questo, e ho cercato veramente in tutti i modi di scrivere una relazione che chiaramente ha avuto molti momenti di ascolto, di audizioni, sono andata anche appunto personalmente sia in Tunisia che in altri paesi, insomma di riuscire a interpretare le loro richieste più che solo le nostre opinioni su di loro, e non è tanto facile perché un po' di stereotipi ci sono anche fra le donne. Certo. La prima cosa che ho capito è che al di là delle difficoltà e anche parecchie che ci sono, penso soltanto adesso alla crisi in Egitto, penso anche alla recente crisi in Tunisia, le difficoltà della Libia, insomma l'accentramento di poteri che c'è ancora in Marocco, però le donne dicono che dopo quelle date fondamentali in cui sono state queste rivolte, rivoluzioni vere e proprie, spesso con una partecipazione amplissima di donne, alcune di loro per la prima volta sono scese nello spazio pubblico, come dicono loro, nella piazza, e il processo è, dicono, irreversibile, dipende molto anche da loro, e non sono certamente disposte a farsi da parte, come invece talvolta alcuni, diciamo in particolare alcuni fondamentalismi e alcuni movimenti che ci sono vorrebbero. Questa è la prima cosa, quindi una grande forza e determinazione di queste donne che noi vediamo anche spesso anche vittime, certo sono vittime di torture, di violenze, di mutilazioni genitali ancora in alcune parti dell'Egitto, ma soprattutto anche di repressioni che francamente riguardano donne ma anche uomini, anche molti giovani uomini spesso torturati e violentati. Quindi loro dicono, e la seconda cosa che ho da loro capito è che per loro è difficilmente separabile la questione dei diritti delle donne, delle loro richieste, da quella più generale della lotta per la democrazia del loro paese. Cioè loro dicono parlare di violenze sessuali è parlare anche di tortura che riguarda tanti, parlare dei nostri diritti è parlare anche dei diritti di libertà di tutti e anche dei diritti, diciamo, di sviluppo che questi paesi oggi giustamente reclamano. Quindi è molto interessante perché è come se una leadership femminile cioè è il tipico di una leadership femminile porsi, inserire la propria, chiamiamola liberazione, dentro un progetto di libertà più generale. Si chiama, cioè, l'Unione, l'importanza, il ruolo che l'Unione Europea deve avere attraverso questa politica di vicinato, forti investimenti, si parla di oltre 90 milioni di euro per la questione di genere nella regione, e poi però c'è il fatto culturale che hai voluto sottolineare tantissimo con il tuo lavoro. Sì, infatti, io penso, noi siamo in qualche modo, questa risoluzione si rivolge a più interlocutori, innanzitutto dà un segnale forte di volontà di sorellanza, diciamo così, con le donne di questi paesi, di tutte le donne, perché sono le donne delle aree urbane che sono state quelle più forse fotografate e conosciute, ma sono quelle delle aree rurali che spesso sono di più e che sono ancora oggi in una condizione anche di grande crisi economica e sociale, anche dopo le rivolte. Loro ti dicono, guardate i processi di strutturazione, di processi democratici, processi dopo una rivolta come questa sono lunghi, dolorosi, non potete pensare, cioè voi non avete risolto, ha detto la rivoluzione francese, tanto per fare un esempio, in poco tempo, e hanno in questo chiesto la pazienza di capire e non di essere, come dire, impazienti verso il fatto che alcuni diritti non si affermano subito. Seconda cosa, ci chiedono, e io ho provato a mettere alcune proposte, che l'Unione Europea, da cui il loro paese è divisa da un braccio di mare, si faccia molto partecipe di questa loro volontà di condivisione. E allora io chiedo appunto che, per esempio, nei programmi dell'Unione, della nuova strategia del Partenariato Euro-Mediterraneo, in cui abbiamo inserito anche questo principio cosiddetto del more for more, cioè più aiuti, più sostegno, più partnership per lo sviluppo, ma dall'altra parte più diritti, più democrazia, più larga partecipazione sociale dei soggetti. Ecco, in questo ci devono essere presenti anche le donne, le associazioni, le ONG, le loro rappresentanze. Faccio un esempio: recentemente una ventina di potenziali leadership in vari campi di questi paesi sono venuti in Parlamento e abbiamo fatto un'azione di una settimana, c'è stato un rapporto di una settimana, un seminario, quello l'hanno fatto, ci siamo anche incontrate, proprio per rafforzare anche la loro possibilità di relazione, di conoscere quali sono gli strumenti, quali sono le opportunità e anche un po' di addestramento a svolgere un ruolo nel loro paese. L'altra cosa è quella, noi abbiamo chiesto a questi governi che siano rafforzate nelle costituzioni, perché in questo momento tutti questi paesi hanno appena varato, stanno varando, a volte in modo molto complesso come in Egitto, su cui c'è stata una forzatura del presidente Morsi, sì, e che ha visto tutti i paesi dell'opposizione, compreso i copti, che sono la più grande minoranza cristiana che c'è in Africa, sono 12 milioni di persone, uscire dall'assemblea costituente. Sono interessati al processo costituente. Vediamo che il Marocco, anche con una certa abilità del re che ha voluto prevenire le rivolte, quindi la costituzione è sufficientemente aperta e riconosce i diritti delle donne. La Tunisia, grazie alla battaglia, che per esempio una grande manifestazione che in agosto c'è stata a Tunisi, certo, ha incontrato le donne parlamentari tunisine e hanno ottenuto molti dei principi che loro volevano, ma vediamo che appunto in Egitto e anche in Libia ancora si fatica e quindi bisogna seguire questi processi su cui impegna anche il Consiglio d'Europa con la Comunità Commissione di Venezia. Assolutamente. Siliacosta.it è il sito per conoscere meglio anche nei dettagli questa relazione. Silvia, prima di salutarci, una battuta finale. È stata una settimana particolare. Il Parlamento ha bocciato la bozza di bilancio pluriennale adottata inizio febbraio dai capi di Stato e di Governo. E non era mai successo. Segno importante. Il Parlamento, che ha voluto dare un segnale molto forte, mi verrebbe da dire non ci si credeva forse da parte di qualcuno che l'avremmo fatto, invece l'abbiamo fatto. Io sono fra coloro che l'ha fortemente voluto nel mio gruppo, perché a mio giudizio in un momento di crisi come questa e con una ricetta europea che dimostra ogni giorno di essere assolutamente troppo giocata sul rigore e pochissimo sull'investimento nella crescita, nell'occupazione, nello sviluppo, anche se si era parlato sempre di queste due gambe, questa gamba non c'è mai. Abbiamo dato un segnale fortissimo nel momento topico, quello cioè del negoziato che si è aperto fra Consiglio dei Ministri e Parlamento su tutti i vari progetti pluriennali. Immaginate che in questo anno noi decideremo tutti i progetti pluriennali europei, dai fondi strutturali alla PAC, quindi all'agricoltura, penso alla mia relazione di cui sono relatore io, cioè sulla cultura e la creatività, che è un punto importantissimo su cui voi avete fatto una battaglia di cui ancora vi ringrazio, anche con il giornale sulle 24 ore. Bene, tutte queste cose erano giocate su questa ipotesi leale, cioè che in questo momento l'Unione Europea avrebbe investito di più, non di meno. Per la prima volta ci troviamo di fronte ad un programma per il prossimo settennio che riduce rispetto al precedente settennio gli impegni, per noi è inaccettabile. Quindi abbiamo detto in questa risoluzione approvata a larghissima maggioranza, se non credo proprio l'unanimità, che il Parlamento rifiuta questa proposta del Consiglio e pone delle precondizioni e delle condizioni per poter andare avanti nel negoziato. Spero che questo serva in questi giorni in cui è riunito il Consiglio a Bruxelles a dare una forte sferzata alla situazione. I cittadini europei non si sentirebbero rappresentati da un Parlamento che accetti questo tipo di miopia e di non di chiusura del futuro, in particolare nuove generazioni. Grazie davvero a Silvia Costa, buon lavoro lassù, grazie, nel cuore d'Europa. Grazie, buon sabato, ciao. Europost-it. Europa e Giovani 2013, il concorso IRSE per gli studenti europei. L'Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia, IRSE, bandisce il concorso Europa e Giovani 2013. Possono parteciparvi studenti di università e scuole di ogni ordine e grado, di tutte le regioni italiane e dell'Unione Europea, minori di 27 anni, mandando un elaborato accompagnato da un video. Tra le tracce, Erasmus, Startup, Giovani Verdi, Contaminazioni Balcaniche, Migranti e Flash Mob. Per conoscere gli altri temi del concorso e partecipare, visitate il sito centroculturapordenone.it. Avete tempo fino al 25 marzo. don't understand what the European Union is, they don't understand how it's governed, they don't know who are the people who are running it, but they know that they weren't chosen by the people. Quello che stiamo ascoltando è un trailer di Bruxelles Business. Abbiamo già conosciuto qualcosa che aveva questo titolo ed era un film. L'abbiamo presentato al Festival Internazionale durante la nostra puntata in diretta da Ferrara. Un film per conoscere il lavoro delle lobby nel cuore d'Europa. Con lo stesso nome, lo stesso gruppo di lavoro hanno ideato una piattaforma online per conoscere il processo decisionale europeo, per capire quelle che sono le regole del gioco, per capire come si prendono le decisioni nelle istituzioni europee, come si fa una proposta di legge, chi interagisce per prendere le decisioni, tante domande che rimbalzano. Ecco, attraverso questo gioco online si possono trovare anche delle risposte. Con noi c'è una delle teste pensanti dietro a questo progetto, è coautore e co-direttore del film e ideatore della piattaforma. Diamo il ben ritrovato a Matthew Lietart. Ciao Matthew. Salve a tutti, buongiorno. Credo, come da tradizione, di aver errato il tuo cognome, giusto? Sono abituata, anch'io mi sbaglio sempre, quindi non c'è problema. Allora Matthew, cosa vi siete inventati? Ma all'inizio, diciamo, avevamo in testa un tipo di bomba, una bomba democratica, sì. Perché pensiamo che cosa succede oggi a Bruxelles è una crisi forte. Penso che in Italia avete anche visto cosa era una crisi legata al sistema democratico. A Bruxelles penso che è lo stesso, se non forse peggio. E quindi noi abbiamo pensato che avere una democrazia dove solo 40% dei cittadini vanno a votare ogni 5 anni è un problema, e quindi abbiamo voluto fare questa bomba per ricreare il dialogo, ricreare un contatto tra i cittadini e queste 700 e pochi altri rappresentanti che sono lì al Parlamento europeo. Mm-hmm. Ma è un gioco o è una piattaforma dove veramente puoi interagire con i protagonisti della vita politica europea? Allora, io penso che è un gioco serio, nel senso che quello che abbiamo fatto lì ovviamente non ha nessuna pretesa di voler cambiare il sistema, perché questo non è con la nostra piattaforma. Però il cittadino che oggi non sa niente di cosa sta succedendo a Bruxelles, quindi normalmente se oggi ascoltate la radio o leggete il giornale in Italia, sapete più o meno di cosa si tratta, di cosa si parla e cosa si vota a Roma, no? Sì. Quindi a livello nazionale in ogni paese lo sappiamo più o meno. A livello europeo c'è un buco di informazione così grande che la gente non sa più cosa succede. Quindi no, il nostro primo obiettivo è di parlare di queste tematiche che sono dibattute e votate al Parlamento europeo e metterlo su un sito dove abbiamo un tipo di battaglia, una battaglia tra due lobbyisti. Quindi questo è molto importante per noi, per sapere che c'è attori, 15.000 lobbyisti a Bruxelles, e loro difendono un punto di vista molto diverso. Quindi questa settimana è sul tabacco, c'è una nuova direttiva discutata qui a Bruxelles. È importante di sapere cosa i diversi interessi stanno proponendo. Quindi questa piattaforma online di fatto è partecipativa, ogni settimana si concentra su un argomento che viene dibattuto in Europa, in questo caso per esempio il tabacco, si vedono a confronto i due punti di vista dei lobbisti che danno le loro risposte in una sorta di confronto virtuale dove l'utente però può leggere le argomentazioni, i documenti, può commentarle, può confrontarsi con l'opinione dei giornalisti e degli altri utenti. Un sito nato da poche settimane, ancora in rodaggio, l'obiettivo, se ho ben capito, è quello di prepararsi alle prossime elezioni, quelle del 2014, proprio per educare i cittadini a essere protagonisti attivi di quello che accade in Europa. Ci vuoi ricordare il sito, Matthew? Allora, è brusselbusiness.arte.tv. Perfetto, lo seguiremo sicuramente nei prossimi mesi. Alla prossima, ciao Matthew, buon lavoro. Grazie. Ciao. Europost-it. Nuovi talenti per l'Europa 2013. Siete aspiranti videomaker e volete vincere una videocamera HD? È facile con l'edizione 2013 di Nuovi talenti per l'Europa, il concorso realizzato dalla RAI in collaborazione con il Partenariato di Gestione, Parlamento Europeo, Commissione Europea e Dipartimento per le Politiche Europee, con la collaborazione del Ministero Affari Esteri. Il progetto mira a favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema dei diritti della cittadinanza e dell'identità europea. Per partecipare, occorre girare una breve clip che racconti la vostra idea di cittadinanza europea e inviarla a Nuovi Talenti entro il 3 giugno. Per maggiori informazioni, visitate il sito europa.nuovitalenti.rai.it. Parliamo di lavoro, lo facciamo andando in Molise, a Campobasso e a Termoli, dove il 21 e il 22 marzo ci sarà una fiera europea del lavoro, una iniziativa unica nell'ambito della mobilità lavorativa in Europa. Sono incontri pianificati da Eures Italia e dall'Agenzia Regionale Molise Lavoro. Abbiamo parlato più volte di Eures, questa piattaforma, questo sito, questo portale che favorisce la mobilità professionale in Europa, andando proprio a cercare quelle che sono le esigenze, le richieste di specifiche professionalità e andare a vedere dove c'è offerta, quindi mettere insieme proprio, cercare di creare dei link da nazione a nazione tra chi offre lavoro e tra chi cerca lavoro. E questa fiera europea del lavoro mette proprio fa scendere in campo quelli che sono i protagonisti, che sono sì i datori di lavoro, ma sono anche i consulenti di questi centri per l'impiego, sono le persone che hanno le giuste competenze, ma che hanno anche la giusta sensibilità per saper leggere un curriculum, per saper orientare, per sapere indirizzare. Tante le figure professionali ricercate, ma per capire il significato, il senso di questa fiera e del lavoro poi quotidiano che fanno nei loro sportelli, abbiamo con noi due protagoniste, sono due impiegate nei centri per l'impiego. Diamo il benvenuto a Susan Frick del Centro per l'Impiego del Tirolo ed Eures. Buongiorno Susan. Buongiorno Federico. Buongiorno. E poi c'è Miroslava Hilovska, consulente Eures Slovacca. Buongiorno Miroslava. Buongiorno a tutti. Allora, Susan, ho capito bene, quindi il 21 e il 22 marzo, insomma, c'è questa fiera dove fate un po' il punto su cosa vuol dire cercare e soprattutto offrire lavoro in Europa in questo periodo. Sì. Allora, la fiera dà la possibilità alle persone interessate di lavorare nei paesi partecipanti e di informarsi del mercato di lavoro e delle condizioni di lavoro. Mm-hmm. Quindi insomma essere protagonisti e riuscire a trovare soprattutto orientamento, riuscire a trovare possibilità. Miroslava, ma come consulenti Eures del vostro paese d'origine, cosa sarete chiamati a fare in questi giorni? Allora, per tutti e due giorni saremo lì a disposizione per fornire le informazioni sulla situazione sul nostro mercato di lavoro, offriremo la consulenza su come trovare un lavoro in Slovacchia e anche negli altri paesi che partecipano e poi in base al profilo dei candidati potremo raccomandare le opportunità interessanti e trasmettere il curricula ai potenziali datori di lavoro nel nostro paese. Ma Miroslava, per esempio parlando di Slovacchia, quali sono oggi le figure professionali più ricercate? Allora in questo momento ci sono tante aziende che si trovano in difficoltà a trovare i candidati qualificati, in particolare sono diversi sviluppatori di software, informatici, ma soprattutto anche i senior contabili con la conoscenza di inglese e anche di italiano, agenti di assistenza clienti con inglese e italiano, analisti finanziari. A questo punto però devo dire che la maggior parte di questi posti di lavoro richiede una buona conoscenza almeno della lingua inglese. Ok. Susan, invece per quello che riguarda il Tirolo, l'Austria, quali sono le figure più richieste? Di cosa c'è bisogno? Noi cerchiamo personale ben qualificato in tanti settori, soprattutto nel turismo invernale, ma anche persone laureate, per esempio in chimica, biochimica, farmacia, informatica, con esperienza professionale trovano un buon mercato di lavoro. Il problema più grande è di trovare persone giuste e la nostra lingua. Purtroppo il tedesco non è molto, non so, non molto amato, non molto... Non lo imparano spesso all'estero e questo è il problema maggiore per noi. Anche se appunto la fiera può diventare un'occasione per misurare, vero, il proprio grado di Ovvio. Preparazione. Quindi... Certo, chi viene poi dallo stand, abbiamo tutti uno stand dove le persone interessate possono parlare direttamente con noi e così possiamo verificare pure il livello del tedesco. Certo. Susan, ma al di là della lingua che... quasi ovvia come raccomandazione, quali sono i consigli che tu daresti a un giovane italiano che sta cercando lavoro all'estero? Beh, come ci ha detto, la cosa più importante per trovare lavoro all'estero è imparare bene le lingue. E, siccome, anche se sembra strano, il tedesco è la lingua più parlata, più diffusa in Europa, avrebbe senso di impararlo. Sì. E questa è la sfida più grande e a parte della lingua ci vuole motivazione, la formazione professionale, pratica, esperienza, gentilezza, autosufficienza, insomma tutto ciò che serve pure per trovare un lavoro in Italia. Miroslava, tu vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche altro consiglio che ti senti di dare ai giovani? Come ha già detto Susan, prima di tutto è importante migliorare la conoscenza delle lingue e seguire ulteriori percorsi didattici o corsi di formazione perché ogni esperienza sia lavorativa che formativa può dare un valore aggiunto al curriculum di un giovane candidato. Grazie davvero, vi abbiamo dato un assaggio di quello che accadrà appunto in questi due giorni alla Fiera del Lavoro. Tante voci, tanti consulenti da tanti paesi europei per dare le giuste dritte e i consigli, per prendervi per mano e accompagnarvi per capire se appunto la vostra strada professionale può essere anche al di là, oltre confine. facebook.com/eures.molise per trovare tutte le informazioni. Ciao Susan, ciao Miroslava, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie, ciao Federico. Europostit. Un tirocinio pagato nei centri di ricerca scientifica europei. Se vi siete appena laureati in chimica, farmacia, biologia o biotecnologie e non avete più di 27 anni, questo tirocinio fa per voi. Il progetto Unifarma Graduates seleziona 82 neolaureati di tutte le università italiane che potranno fruire di un contributo Leonardo per un tirocinio di 24 settimane presso centri di ricerca europei del settore chimico, farmaceutico e biotecnologico, sia pubblici che privati, in diverse città europee. Per partecipare occorre, oltre alla laurea, un'ottima conoscenza dell'inglese e l'aver svolto una tesi di tipo sperimentale in laboratorio. Per saperne di più, andate sul sito unifarmagraduates.it, ma affrettatevi, il bando scade il 28 marzo. Nelle scuole né trabajo, vamos todos a leer, allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer, si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer, si eres presa o eres naco. Su leggiamo questa, una canzone che... ci introduce nel prossimo argomento. Perché? Perché il 19 marzo a Milano si tiene un evento internazionale dedicato al futuro dell'editoria. Tutto ciò accadrà al Museo della Scienza e della Tecnica, If Book Then, il titolo. E di questo appuntamento importante si cerca di capire in parte quello che sta accadendo, ma soprattutto quello che accadrà all'interno dell'Europa. E non solo, però vogliamo concentrarci un po' su quelli che sono intanto i dati sulla lettura in generale in Europa, ma soprattutto quello che è il futuro dell'editoria e in particolare dell'editoria digitale. Con noi c'è quindi Marco Ferrario, cofondatore di Book Republic e promotore di If Book Then. Buongiorno Marco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si legge in Europa? In Europa si legge in maniera diversa, si legge molto di più nei paesi nord europei e nei paesi in generale anglosassoni, si legge di meno nei paesi latini. E purtroppo l'Italia non è messa bene, perché è uno dei paesi a più basso tasso di lettura. In Italia meno di una persona adulta sopra i 14 anni legge un libro, un pochino meno, quindi è un po' meno del 50%. Ma perché? Nel senso, cioè, nei paesi nordici è una cosa solo culturale, o sono state fatte negli anni attività di promozione centrate, giuste, cosa che noi invece non riusciamo a fare? Ma è un dibattito molto aperto. Se si conoscessero esattamente le cause, probabilmente le cause sono tantissime, risalgono ai tempi della riforma protestante, della diffusione della lettura della Bibbia, grazie anche all'invenzione della stampa nella seconda metà del Cinquecento, nei paesi appunto protestanti, per cui Nord Europa, mentre nei paesi cattolici la lettura della Bibbia passava sempre attraverso la lezione della Chiesa. Questo è, diciamo, è lo stereotipo principale che fa risalire molto in là nel tempo queste differenze di lettura. In realtà probabilmente ci sono moltissimi altri fattori, non ultimo per quanto riguarda l'Italia, che è un paese a recente alfabetizzazione. Da noi la televisione forse ha avuto un ruolo per far imparare a leggere e a scrivere maggiore che in altri paesi, e allora il libro probabilmente c'è meno familiarità con il libro anche per questa ragione. Ma ripeto, le cause sono tante, è ingiusto forse anche attribuire una colpa eccessiva alla scuola, che in realtà tanto sta facendo. Certo, si potrebbe sempre fare di più. Credo che siano proprio questioni culturali, climatiche, di comportamento, geografiche, tutte insieme. In questa giornata di lavoro ragionerete molto anche sull'ebook. L'ebook è il futuro dell'editoria o è già il presente? L'ebook è già il presente, perché il digitale, parte della nostra vita si svolge in un contesto che è quello digitale, e anche la lettura dunque. La crescita, la penetrazione, l'abitudine di noi tutti a leggere libri in formato digitale si sta diffondendo, ma forse c'è anche un'aspettativa eccessiva. Ricordiamoci che la possibilità di leggere un ebook è apparsa negli Stati Uniti solo 6 o 7 anni fa, e da noi in Europa in maniera, diciamo così, importante 2 anni e mezzo fa, con l'uscita di iPad e poi di Kindle, che sono i principali strumenti per leggere un ebook. Quindi è recentissimo, e da allora la diffusione della crescita di ebook, in realtà che è ancora molto bassa, però in realtà ha dei tassi di crescita veramente importanti. E cosa vi aspettate da una giornata di studio con tante voci, perché ci saranno tante voci dall'Europa? Qual è il prossimo step, nel senso che al di là dell'analizzare la situazione state cercando orientamenti comuni? L'Europa può giocare secondo te un ruolo centrale nello sviluppo della lettura, dell'editoria? L'Europa può e deve trovare una forma sua nello sviluppo dell'editoria digitale. Siamo un pochino, e spiace dirlo, ostaggio delle grandi corporazioni internazionali, delle grandi aziende internazionali, principalmente americane. Sto pensando a Apple, a Amazon, a Google, cioè i nomi che ricorrono di più nel contesto digitale, che stanno entrando in Europa e trovano anche delle differenze nella legislazione, nelle legislazioni dei diversi paesi, che costituiscono delle opportunità per loro. Mi riferisco per esempio alla normativa sull'IVA del libro digitale. In Europa il libro digitale è considerato un servizio e non un libro, c'è un'IVA tra il 18 e il 21%, però c'è un paese in Europa, che è il Lussemburgo, che ha adottato una percentuale di IVA del 3% sull'ebook. Guarda caso Amazon e Apple hanno la sede operativa in Europa in questo paese, e di conseguenza hanno un enorme vantaggio fiscale nel vendere da quel paese gli ebook in tutta Europa. Questo è solo un esempio, ma quindi innanzitutto c'è un problema che è comune ad altri settori, insomma, di disorganicità della legislazione fiscale e di altri aspetti normativi. Ma c'è anche un discorso di tecnologia, di innovazione, di start-up, che è il motore del passaggio al digitale anche del libro e dell'editoria, e in Europa si cominciano a vedere dei centri importanti d'eccellenza, soprattutto Berlino, Londra, ma comincia a vedersi qualcosa anche in Francia e anche in Italia. Ci sono anche in Italia alcune esperienze molto interessanti di innovazione editoriale che presenteremo insieme ad altre esperienze internazionali nella nostra giornata di martedì. Ricordiamo il sito, che è ifbookthen.com, in cui si può leggere l'intero programma di questa giornata. Grazie davvero Marco e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. E prima di salutarvi vi ricordo che lunedì alle 10 il vicepresidente Tajani dialoga con i cittadini sul futuro dell'Europa in Campidoglio, la nuova tappa di questo tour dei commissari europei. Tutto ciò può essere seguito anche via Twitter, l'hashtag ufficiale è EUDEB8, già pubblicata sulle nostre pagine in Twitter e in Facebook. Fate domande, perché il futuro dell'Europa passa anche dalle vostre sollecitazioni. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa e un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ciao da Federico Taddia.